bottiglia dell'acqua e il book sotto il braccio. Hanno forse 20 anni o qualcosa di meno, alte 1,80 la seconda di seno. Ma sono fragili come un giorno d'autunno quando piove. E che scusa gli dai se una stagione domani cambierà? Fashion. Oggi in studio per la prova sorriso c'è un fotografo serio, lui ti può trasformare. Prima di corsa nella stanza del trucco, poi dimostraci che li puoi lasciare di stucco. Ma devi stare al gioco se top model puoi diventare. Una fila di bambole già pronta per posare. Nei sogni